Abbiamo preso qualche giorno fa, nel corso della settimana scorsa, dai giornali quali sono i progetti futuri di quello stabile, che è uno stabile che da un lato rappresenta un pezzo importante della nostra storia cittadina, storica occupazione abitativa nata nel 2013 e poi sgomberata con la forza nel 2016. Dal 2016 ad oggi è rimasto sfitto, nel mentre acquistato da questa cordata di imprenditori bolognesi e abbiamo preso di questo utilizzo futuro di una sorta di condominio studentesco. Il punto che noi volevamo portare è come in una città nella quale il caro vita e il caro affitti sta ormai raggiungendo dei livelli assolutamente insostenibili, nulla è stato fatto da parte dell'amministrazione per in qualche modo porre un rimedio a questa criticità. Ancora una volta, rispetto a quello che sono spazi che hanno avuto un'utilità sociale come un'occupazione, Mirner 13, ma non è l'unica, in città si è sempre scelto poi in qualche modo un'operazione di profitto e di speculazione rispetto a questi immobili. Abbiamo appreso dalla stampa come questo gruppo di imprenditori sta anche cercando di fare una sorta di operazione di facciata, di bella pubblicità di quello che sono gli imprenditori buoni, che non affittano in affitti brevi, ma invece affittano agli studenti, che tutti sappiamo, sotto gli occhi di tutti, hanno un'enorme difficoltà. Nel corso degli ultimi anni, quest'anno il dramma è esploso, di trovare una casa, un appartamento prezzi accessibili. Il primo punto è che non dovrebbe essere in qualche modo un dato amoroso quello di affittare agli studenti o ai giovani che vengono in città per studiare, per lavorare e arricchiscono il tessuto cittadino, ma dovrebbe esserci un controllo pubblico rispetto a quello che sono gli affitti brevi, rispetto agli affitti tradizionali, e questo oggi non c'è. Secondo punto è che anche gli affitti che vengono proposti all'interno dello stabile di Mirner 13 non sono dei prezzi abbordabili o accessibili, quindi non ha nessun tipo di funzione sociale o di bella pubblicità verso gli studenti che arrivano. Una singola a 500 euro, un posto in doppia a 350 euro, non sono di certo dei prezzi competitivi o popolari. Riconfermano ancora una volta quello che è il progetto sulla città di Bologna di attirare sempre più studenti facoltosi rispetto anche al target che l'università di eccellenza sta cercando di attirare, e nasconde poi un'operazione alla quale stiamo assistendo da anni di espulsione dal centro di quello che sono invece le fasce popolari e le fasce più deboli, sia quando si tratta di famiglie e lavoratori sia quando si tratta di giovani e studenti. Il secondo punto che noi volevamo portare a Mirner 13 è chiaramente, se non la nostra storica occupazione, è anche quello della prima, lo stabile viene sgomberato, viene svenduto ai privati, perché poteva invece avere un'utilità collettiva, sociale, da parte della pubblica amministrazione, che invece ha scelto di vendere l'immobile, viene messo a profitto. Le giunte, l'amministrazione nel corso degli anni sono cambiate, ma le pratiche di fatto, al di là della retorica, sono rimaste le stesse. Noi abbiamo voluto approfittare di questa conferenza stampa per fare un nostro commento, mettere un punto su quello che sta accadendo, ma anche rilanciare in avanti, perché in un contesto come quello nel quale ci troviamo oggi, in cui l'emergenza abitativa è ormai strutturale e lo sappiamo da moltissimi anni, stiamo tornando a dei numeri che ricordano quelli della crisi del 2008, degli anni del 2012 e del 2013, forse toccando anche dei picchi mai visti prima a livello di difficoltà rispetto al caro vita in città. Quindi abbiamo voluto lanciare anche in avanti con un'assemblea pubblica domenica 27 alle 15:30 presso lo spazio occupato da parte dell'organizzazione giovanile Cambiare Rotta a Filippo Re, che ci ospiterà con un pranzo sociale e l'apertura di uno sportello per il diritto abitare rivolto soprattutto alle fasce più giovanili, sempre all'interno di questo spazio.